Il beato Luigi Maria Monti nasce a Bovisio, in diocesi di Milano, il 24 luglio 1825. Pensate, cari amici, era l'ottavo di 11 figli, una famiglia meravigliosa, profondamente cristiana, e soprattutto i genitori furono un grande esempio sia per lui che per i fratelli. Purtroppo, già da bambino conobbe la sofferenza più cocente. Rimase infatti orfano del papà quando aveva appena 12 anni. E nella famiglia, possiamo immaginarlo, fu un dramma, perché era lui il papà che portava a casa il pane. Quindi, oltre al grande dolore per questa perdita, possiamo solo immaginare lo smarrimento, anche la preoccupazione per un futuro che dava veramente poca speranza. Ma Luigi, seppur giovane, era risoluto, non si perse d'animo e per cercare di aiutare la famiglia lavorò duramente, senza badare a sacrifici, come artigiano del legno, anche come falegname, riuscendo ad aiutare la mamma e i fratelli più piccoli, quindi a portare a casa almeno il minimo indispensabile per andare avanti. Ma anche il dolore grande per la perdita del papà non lo aveva allontanato dal Signore, anzi possiamo dire che lo aveva reso ancora più unito ed era tale l'ardore che sentiva nel cuore per Gesù che il suo desiderio era quello di seguirlo pienamente. E questo trasporto si rendeva vivo in una profonda preghiera che lo faceva crescere ogni giorno di più in quello che era il suo cammino spirituale. E pensate, la gioia, di comunicare agli altri questo cammino lo portò a radunare nella sua piccola bottega molti altri giovani coetanei, sia artigiani come lui, sia contadini, dando vita ad una specie di oratorio serale. Ed era così bella, così intensa la comunione tra questi ragazzi su questo cammino spirituale, che il fine apostolico che si erano posti era la santificazione di ciascuno di essi e anche del prossimo. In modo particolare volevano combattere la bestemmia, allora molto presente, svuotare le bettole, suscitando un interesse vero per un ritorno alla vita di fede e soprattutto a quella sacramentale. E questo gruppo, proprio per l'amore che si portava a Gesù, prese il nome di Compagnia del Sacro Cuore di Gesù. Ma il popolo di Bovisio lo chiamò la Compagnia dei Frati, quindi già li vedevano consacrati al Signore. E l'azione di questi giovani, spiritualmente molto vivaci, si fece subito concreta, soprattutto con i fatti. Allora, infatti, per il salariato oppure l'affittuario agricolo che era ammalato, non c'erano previdenze sociali, cioè se stavi a casa praticamente non mangiavi, e succedeva che, non potendosi molto spesso recare nei campi, soprattutto quelli che stavano poco bene perché ammalati, rischiavano, possiamo dire letteralmente, di fare la fame con le loro famiglie. Non era una cosa da poco. Era necessario, e loro lo sapevano bene, fare qualcosa. Ebbene, proprio questi ragazzi, guidati da Luigi Maria, si misero, pensate, loro stessi ad andare nei campi, ad arare, a seminare, dando sollievo, speranza a quei loro compaesani che, proprio nei momenti di grande difficoltà, perché stavano male, non potevano assolvere a questo compito. Ci sarebbe da essere ammirati davanti ad un esempio come questo, soprattutto, dobbiamo dirlo, perché erano dei ragazzi. Ma allora c'era chi lodava Dio, ma anche chi bollava questo atteggiamento come bigottismo, so che è assurdo, ma era così, come bigottismo, addirittura fanatismo. Il parroco di allora sostenne il sorgere della compagnia, anzi appoggiò la sua attività, ritenendola, come era logico, molto fruttuosa per la vita della piccola comunità. Il coadiutore invece fu di parere esattamente opposto e non fece misteri di questa sua avversione. Arrivò anche il nuovo parroco, che purtroppo si dimostrò sin dall'inizio contrario e voleva azzerare tutto, dicendo così al suo ingresso in parrocchia: «Non voglio tanto bigottismo nella mia parrocchia». È assurdo, ma è così. Questo era quello che si vedeva. Invece di vedere, di encomiare questi giovani, praticamente li si metteva in un angolo, anzi li si rimproverava di bigottismo. Ma oltre a questo siamo anche in un anno particolarissimo, il 1851, ed era finita da poco la prima guerra di indipendenza italiana, vinta però dagli austriaci, e proprio nel Lombardo-Veneto si era realizzata allora la più grande repressione da parte delle forze di occupazione. Per di più, proprio in quel periodo era in programma la visita dell'imperatore Francesco Giuseppe a Milano e per cui le misure di sicurezza avevano suggerito di stringere ancora di più i limiti delle libertà personali dei cittadini. E proprio, cari amici, in questo quadro politico alquanto critico, qualcuno approfittò della situazione pensando bene di danneggiare sia il giovane Luigi Maria, ma anche i suoi compagni con una soffiata calunniosa. Lo stesso era stato fatto per la verità anche in precedenza, ma non aveva avuto l'effetto desiderato per l'intervento del buon sindaco di Bovisio. Praticamente l'oratorio serale dove loro si riunivano, che attuavano proprio nella bottega del nostro Luigi Maria, tutti questi ragazzi, questo oratorio serale fu presentato al commissario di polizia come una riunione di cospiratori, pensate. Ma addirittura i libri di Sant'Alfonso Maria de Liguori, che i ragazzi leggevano come lettura spirituale, divennero nel documento accusatorio libri rivoluzionari. E infine la Compagnia dei Frati divenne la società segreta dei frati. Grazie a Dio, quella sera che fecero irruzione i gendarmi nella casa bottega di Luigi Maria, lui era assente, i giovani all'interno erano più di quattro. Perché vi dico questo? Perché in forza del decreto militare di allora, se fossero stati meno di quattro, potevano essere uccisi in quel momento senza processo, perché erano sicuramente dei cospiratori. Comunque, oltre ad arrestare i ragazzi presenti, come si supponeva, anche Luigi Maria fu prelevato nei giorni successivi. Era nella canonica di Don Luigi Dossi a Quinto Romano, un paese vicino a Milano. Qui lui, con altri due compagni, stava vivendo, sperimentando la vita conventuale sotto la regola di San Benedetto, e la guida, diciamo, spirituale di questi ragazzi era il parroco Don Dossi. Anche Luigi Maria fu arrestato e venne rinchiuso con gli altri nello stesso stanzone del carcere di Desio. Ebbene, era normale, ci si poteva arrabbiare contro chi avrebbe escogitato questa meschinità, ma fedele al loro stile, nessuno dei giovani espresse risentimento oppure vendetta, pur essendo chiara a tutti la fonte della calunnia, qualcuno della parrocchia. Il quadro accusatorio non aveva però nessuna prova, anzi, se una riprova dell'innocenza dei ragazzi era necessaria, questa, cari amici, arrivò proprio dal popolo di Bovisio, che accorse in massa con le forche e bastoni dirigendosi verso la canonica. Solo l'intervento del saggio sindaco evitò ancora una volta che gli eventi prendessero una piega davvero tragica. Ma non solo, erano talmente stimati questi ragazzi che anche le due amministrazioni comunali di Bovisio e di Masciago scrissero un'istanza al commissario distrettuale per mettere in rilievo l'ottima condotta dei ragazzi, sia come cittadini che come operai che come persone. Ma nel frattempo anche in carcere i nostri non si persero d'animo e Luigi Maria, come animatore e responsabile del gruppo, propose di sfruttare quell'occasione di trovarsi insieme, continuando anche lì a fare quello che si faceva prima nella sua bottega alla sera, quindi di pregare, di meditare, di adorare Gesù nel cuore. Non importava, diceva, se ora erano lì in quello stanzone del carcere di pochi metri quadrati, uno stanzone sporco, senza aria e senza luce. Intanto, malgrado gli interrogatori, le minacce e le ispezioni, il dossier restava vuoto. Insomma, per farla breve, alla fine il pretore di Desio ricevette l'ordine dagli alti gradi, gli arrivò questo dispaccio, di dimettere dagli arresti prontamente, cioè subito, i detenuti che erano stati accusati di partecipare a società segreta, detto dei frati. Praticamente furono liberati tutti. Però si erano fatti la bellezza di 72 giorni di prigionia. Furono liberati perché il fatto ovviamente non si sosteneva. Intanto Luigi Maria, che aveva 21 anni, nel frattempo aveva anche emesso voto di obbedienza e castità nelle mani del suo padre spirituale Don Luigi Dossi e lo aveva fatto pubblicamente nella chiesa di Bovisio. Era, diciamo, una presenza di affetto nei confronti dei suoi compaesani. E desiderava pubblicamente dire il suo amore per il Signore. Non abbandonò però la sua famiglia, perché nel frattempo era morta anche la mamma, quindi restò come laico consacrato lì nel paese, indossando sempre l'abito usuale del lavoro che faceva. Tornavo però quando poteva spesso a Quinto Romano, proprio per continuare questa sua prima esperienza conventuale, anche perché in quel periodo la sua chiamata alla vita consacrata aveva ricevuto una forte accelerazione. Nel frattempo, cari amici, anche Don Luigi Dossi, quindi il padre spirituale di questa piccolissima comunità di giovani, maturò l'idea di fondare una congregazione. Pensò però che sarebbe stato meglio aggregarsi ad una già esistente che avesse però le loro stesse finalità, soprattutto quindi a favore dei ragazzi abbandonati, degli orfani. Don Dossi cosa fece? Prese contatto con padre Giuseppe Baldini, che era allora superiore generale dei Figli di Maria, congregazione che conosciamo, fondata dal canonica di Brescia, attualmente beato, Lodovico Pavoni. Quando Pavoni diede inizio alla sua fondazione, cari amici, era l'8 dicembre del 1847, assegnò proprio ad essa lo speciale impegno di svolgere un apostolato educativo in favore soprattutto della gioventù abbandonata. Anzi, lui stesso consumò tutte le sue energie e la sua vita nel porre in salvo dai pericoli della guerra tantissimi giovani di Brescia abbandonati a loro stessi. E lui, a Don Dossi, piacquero le costituzioni di questa congregazione e quindi decise di farne parte. Era il 28 ottobre 1852. Qualche mese dopo, anche Luigi Maria raggiunse il suo padre spirituale a Brescia. Per la verità, lo fece più per obbedienza che per convinzione. Arrivò il 28 dicembre di quello stesso anno e vestì l'abito dei Figli di Maria entrando in noviziato. Qui ci restò 6 anni. Intanto, nel 1855, purtroppo fu un anno terribile perché a Brescia esplose il colera. Lui, il nostro beato, aveva già fatto esperienza di questo terribile morto in passato, proprio a Bovisio, quando aveva 11 anni e aveva visto i tragici effetti di questo morbo. Infatti nel suo paese natale morirono decine di persone, quindi già sapeva di cosa si trattava. A Brescia venne intanto impegnato come infermiere proprio nel lazzaretto, dove raccoglievano tutti i colerosi. E qui già questo giovane già emanava una sua luce, cioè una grazia particolare. Perché? Perché il preludio, cioè il manoscritto che fa da introduzione alla storia di questa congregazione del Pavoni, già allora, lui era da 3 anni che era come seminarista, come novizio, scusate, scrive così di lui. Fu allora, quindi durante il morbo, che il Monti cominciò a far risplendere in modi meravigliosi quella carità eroica che non si estinse mai verso tutti quelli che soffrono. Per questo suo ardente spirito di carità ebbe l'ordine dai suoi superiori di prendersi cura del lazzaretto con 3 dei suoi correligiosi. Il lazzaretto in quel periodo rigurgitava di colerosi e, dice il manoscritto, era instancabile nel prestare a quegli infelici i più bassi servizi, cioè i più umili, e non curante della propria salute, affrontava con animo acceso di carità i più faticosi e pesanti uffici. E il Signore, che lo veniva lavorando per i suoi alti fini, lo preservò dal morbo, anche se notte e giorno egli respirava quell'aria infetta e si faceva tutto a tutti. Venne a soffrire, sul termine del morbo, solo di una leggera malattia cagionata dal continuo e faticoso strapazzo. Questo è per dirci anche, per darci un ritratto abbastanza preciso di quello che era allora già questo beato, ma che sarebbe stato ancora di più nel tempo, negli anni, come vedremo. Ma i problemi per questa congregazione cominciarono proprio lì. Infatti, il successore del beato Pavoni la guidò, pensate, per soli 9 mesi perché morì improvvisamente. La cosa problematica fu che il successore umilmente confessò di non essere in grado di sostenere quel compito, cioè non se la sentiva. Venne quindi tutto messo nelle mani del vescovo di Brescia, Monsignor Verzeri, che formò una commissione. Questa commissione, dopo un po' di tempo, suggerì a Monsignor Verzeri di prendere padre Dossi, che era a Brescia, e di trasferirlo a Bussolengo, in provincia di Verona, come superiore in una casa donata all'istituto perché iniziasse un'opera a favore dei più poveri. E qui con padre Dossi a Bussolengo anche arrivò Luigi Maria Monti, e questa, cari amici, fu la prima comunità del ramo separato della Congregazione dei Figli di Maria. Ecco, dobbiamo dire una cosa, cioè che padre Dossi, prima di essere, diciamo, inviato a Bussolengo, a Brescia aveva avuto modo di conoscere un altro grande santo, cioè Santa Maria Crocifissa di Rosa, e anche il servizio che le sue discepole, le ancelle della carità, rendevano alle malate nei reparti femminili degli ospedali a Brescia. Lui ne fu profondamente conquistato e si accese, diciamo, in cuor suo il desiderio grande e pensò che sarebbe stato utile anche fondare una congregazione maschile che facesse altrettanto nei reparti ospedalieri maschili per aiutare i tanti malati che allora erano, diciamo, seguiti non bene, comunque abbandonati, molti abbandonati a se stessi. E questo anche sul racconto di Santa Maria Crocifissa. E Santa Maria Crocifissa gli suggerì allora come collaboratore un infermiere molto preparato, si chiamava Cipriano Pezzini. Pezzini aveva lavorato a Cremona, negli ospedali di Cremona, aveva molto impressionato la santa. Allora padre Dossi, fidandosi di Santa Maria Crocifissa, invitò questo signore a Bussolengo, e qui la data è particolare perché il 25 marzo 1857 decisero quel giorno con Luigi Maria Monti di dar vita ad una congregazione di carità. Il vero inizio di quella congregazione che restò nel cuore del nostro beato Luigi Maria Monti nacque quel giorno, anche se, come vedremo, cari amici, ci volle allora la pazienza di Giobbe, perché arrivò dopo più di 20 anni, quindi veramente fu una prova unica. Comunque fu in quell'occasione, quindi il 25 marzo del 57, che il nostro beato forgiò anche il nome del suo futuro istituto, che, dicevamo, con sofferenze e prove, fonderà in seguito come il nome che darà all'istituto, che c'è attualmente, sono i figli dell'Immacolata Concezione. Nel frattempo Cipriano Pezzini partì per Roma con la finalità di predisporre tutto per iniziare, per la fondazione, e pensò che proprio Roma fosse il luogo ideale per realizzare il disegno. Andò dal Papa Pio IX, e ottenne l'approvazione per la nuova comunità ospedaliera che avrebbe dovuto iniziare la sua attività di assistenza ai malati in uno dei più grandi ospedali d'Europa allora, l'ospedale di Santo Spirito, ed aveva preso degli accordi con il reggente della struttura, era il commendator Vitelleschi, praticamente era responsabile massimo di tutto l'ospedale. Felice di questo successo, Cipriano Pezzini tornò a Bussolengo per adunare tutti i giovani che avevano aderito al progetto, a questo nuovo cammino, ma non avevano fatto i conti con i cappellani dell'ospedale. Allora, alcuni dicono che, temendo forse di essere messi da parte dalla direzione dell'ospedale, perché sarebbe arrivata la comunità di Luigi Maria, altri perché non potevano attendere perché i malati avevano bisogno di assistenza, fatto sta che formarono un'associazione di terziari francescani senza voti religiosi, ma quello che lascia perplessi è che raccolsero in fretta e furia tante persone, ma senza criteri selettivi, cioè non avevano la minima infarinatura dell'essere infermieri, quindi non si riusciva a capire perché. Comunque ebbero il permesso sempre del commendator Vitelleschi, che contravveniva a quanto aveva già promesso a Pezzini, e ottennero la facoltà di assistere i malati nelle corsie. Pezzini, avvisato, tornò subito a Roma, incontrando il commendatore, ricordandogli la promessa, ma non ci fu niente da fare. Intanto il nostro fra Luigi Maria, ignaro, diciamo, di quello che stava accadendo, attendeva notizie e non vedeva l'ora di partire per Roma, perché ormai era quello cioè il disegno che aveva nel cuore era quello, cioè viveva praticamente per quello, si era deciso, sentiva che era la decisione giusta, quindi la sua vita era do totalmente donata a questa decisione, no? A questa futura maturazione di questo istituto. Ma vedeva che settimana dopo settimana questa decisione veniva sempre rimandata, cioè non gli davano la possibilità di partire per Roma. Insomma, non essendo poi chiari, per lui non riusciva a capire, furono giorni di grande prova, ma lo furono talmente gran, tanto, questi, diciamo, questa, fu talmente grande questa sofferenza, che lui stesso, negli scritti poi successivi, scriverà così: «L'abbattimento del mio spirito non era più sorretto da nessuna consolazione, né umana né divina, solo e in preda ai più tristi pensieri, combattuto da gagliarde tentazioni, ero caduto in estremo avvilimento. Passavo ore davanti a Gesù sacramentato, ma erano tutte ore senza una stilla di celeste rugiada. Il mio cuore rimaneva arido, freddo, insensibile. Ero proprio sul punto di fare ogni cosa. Eccolo qua. Ma il Signore, cari amici, non ci lascia mai soli quando la cosa è fatta per dar lode a Lui, per aiutare i fratelli. Cosa successe? Un intervento straordinario di Gesù e di Maria. Allora, ci viene raccontato che praticamente ebbe una visione della Madonna e di Gesù che gli dissero che avrebbe molto sofferto, avrebbe avuto molte prove, ma che lui avrebbe fondato l'istituto, come poi sarà. E questa promessa, questa presenza, gli infuse un coraggio infinito e anche una grandissima fortezza per proseguire. Insomma, dopo tanto penare, arrivò finalmente anche il momento di partire per Roma. Pezzini aveva raggiunto un accordo per integrare nell'ospedale anche la sua piccola comunità. E qui Luigi Maria giunse nell'aprile del 1858, aveva 33 anni, per iniziare questo nuovo cammino seguito da altri compagni. Ma ancora una volta l'amara sorpresa, cioè in ospedale a Santo Spirito, il posto che spettava la sua comunità era totalmente occupato dai fratelli ospedalieri, fondato, come dicevamo prima, dai cappellani dell'ospedale stesso. Insomma, per farla breve, non ci fu niente da fare, cioè o si accettava quella situazione entrando a far parte della comunità dei fratelli ospedalieri, oppure si abbandonava il progetto. Ebbene, Luigi Maria non si scompose, accettò con grande umiltà di restare e aderì a quell'istituto sicuro che con il tempo il Signore avrebbe permesso la nascita della nuova fondazione, come gli aveva promesso. Ma il tempo, dicevamo, non fu breve. Questo stato di cose durò quasi un ventennio e all'amico Pezzini in quei giorni, sconsolato e avvilito, Luigi Maria disse: «Facciamoci coraggio, scordiamoci del passato cipriano e cerchiamo di fare del bene, di perseverare, cerchiamo di essere esatti nei nostri doveri, di non dare per conto nostro motivi di lagnanze, di servire i poveri infermi con un vero spirito di sacrificio, di rispettare tutti, specialmente chi ci è superiore». E vedrete che così facendo le cose si muteranno e l'opera a suo tempo ritornerà in mano nostra e allora potremo a nostro bell'agio formare l'istituto con vero spirito religioso e a secondo che l'anno scorso già stabilimmo a Bossolengo, si riferiva alla data in cui quel giorno in cui avevano deciso di creare questa nuova congregazione. E nell'istituto dei fratelli ospedalieri il nostro beato fu sempre un semplice religioso laico. Nel 1860 venne anche eletto consigliere del Superiore Generale, ma preferì poi lasciare l'incarico perché non condivideva i suoi criteri di governo della piccola comunità. Venne poi nominato superiore di una casa di malati cronici a poca distanza dall'ospedale. Passati alcuni mesi fu richiamato a Santo Spirito addirittura come superiore, quindi c'era grande stima nei suoi confronti. Ma visto che lui era esatto nelle cose e soprattutto era un uomo di Dio, quindi la preghiera al primo posto, ma anche la carità e l'amore verso tutti, dopo solo 5 mesi, voi pensate, fu deposto ed emarginato e poi inviato nello stesso cronicario da dove era venuto prima. Questa volta però non come superiore, ma come l'ultimo tra gli ultimi e con il solo incarico di distribuire le medicine ai poveri. Ebbene, pur nella una profonda sofferenza, il nostro beato non si fermò e offriva al Sacro Cuore di Gesù, al Cuore Immacolato di Maria, ogni momento di prova, ogni sofferenza, ogni tristezza anche, no? Perché si rendeva conto, gli dispiaceva questa situazione, perché aveva messo tutto se stesso al servizio dei confratelli, dei malati, eppure chi era responsabile lo voleva fuori. E aveva sempre, dicevamo, nel cuore il grande desiderio di aiutare chi era nel bisogno. Voi pensate che oltre ad essere comunque incaricato di distribuire le medicine ai più poveri, lui per 2 anni autonomamente si dedicò anche a fare la scuola a tantissimi ragazzi analfabeti che erano nei casolari costruiti sui latifondi della via Aurelia Antica. Aveva un grande amore per i ragazzi, proprio per aiutarli, infatti poi, come vedremo, li aiuterà qui in Lombardia, iniziando a Saronno con una grande struttura. Intanto a Roma restò a servire i malati per circa 10 anni, ma l'azione di grande carità del nostro Luigi Maria non restò nascosta. Egli, nonostante tutto, possiamo dire quasi questa persecuzione, nonostante tutto si faceva amico, possiamo dire, confidente, consolando, aiutando soprattutto anche i suoi confratelli ospedalieri. E la sua carità veramente cambiava davvero i cuori, cambiava le persone, proprio anche nell'assistenza ai malati. Questo risulta per esempio anche da certificati rilasciati allora dai primari, dai medici, non solo dagli stessi ammalati che dicevano, è scritto così, encomiavano sommamente lo zelo, la pazienza, l'umiltà, l'abnegazione, la carità dei fratelli, la pulitezza delle sale e dei letti, la buona assistenza degli infermi, l'ordine e il silenzio introdotti nelle infermerie e molti inconvenienti scomparsi dalle sale dalle loro cure affidate. Come dicevamo, era stato messo ai margini della comunità, ma la sua opera, diciamo, nel toccare i cuori era sempre grande. E questa è una cosa che tutti sapevano. In quel momento si trovava nel cronicario di Vigna Corsini, appunto senza nessun incarico, messo da parte, dicevamo, da alcuni responsabili, timorosi, e questo è vero, anche del suo prestigio professionale. Infatti lui era preparatissimo anche sotto l'aspetto infermieristico, ma probabilmente erano timorosi anche del suo essere vero religioso consacrato a Dio. Perché? Perché la sua vita santa era indirettamente un rimprovero a chi vita santa non la conduceva e doveva invece farlo. In quel periodo, intanto, fu un periodo anche qui piuttosto, come si potrebbe dire, anche di tristezza, di dolore, entrò in contatto con i Fate Bene Fratelli. Anzi, per un momento pensò anche alle missioni. Proprio mentre stava considerando questa ipotesi, ricevette con grande sorpresa una chiamata dal ministro generale dei Cappuccini, che allora era anche superiore generale dei Fratelli Ospedalieri. E gli fu proposto di andare ad Orte, una cittadina a 80 km da Roma, per trattare l'accettazione di quell'ospedale con la commissione. Essendo pratico e perito, diceva il superiore generale, in questi affari. Ora, cioè, stupisce questa stima e questa chiamata proprio da parte di chi lo aveva praticamente aveva dato la possibilità di metterlo ai margini, quindi di metterlo fuori. Ma il Signore, sappiamo, sorprende sempre. Lui obbedì e partì per Orte e in 3 giorni, pensate, concluse le trattative che erano arenate da molti mesi. E qui a Orte rimase, pensate, come superiore della comunità e come responsabile dell'ospedale, un ospedale fatiscente che si doveva riorganizzare nelle strutture antiche di un convento, anche pieno di muffa, ci viene detto. Ma proprio qui Luigi Maria Monti trascorse, cari amici, uno dei periodi più belli e più fecondi della sua vita e realizzò il suo ideale di operatore ospedaliero interamente consacrato a Dio. E i cittadini compresero la bontà di questo grande apostolo. Pensate, fu una vedova che per prima gli aprì la porta di casa per ospitarlo. In ospedale non poteva andare perché dovevano sistemarlo. Era talmente povero che dopo aver sostenuto lui la spesa del viaggio da Roma a Orte, gli erano rimaste 3 lire e senza nessuna possibilità di avere qualcosa anche per i bisogni più essenziali. A 17 giorni dal suo arrivo, il giorno della festa dell'Immacolata, inaugurò la nuova gestione e per 9 anni sarà per gli Ortani un riferimento sicuro, profondamente amato. E come era ben voluto, come gli si voleva veramente bene, in modo sincero, lo scrive un frate, Fra Serafino Banfi, che dice così: ad Orte padre Luigi era considerato come quello che faceva tutto per il bene della popolazione. A lui ricorrevano tutti del paese come una madre affettuosa, indistintamente, per qualunque cosa. La sua opera era preferita a quella del medico. Anzi, dice il frate, il medico stesso molte volte lo prendeva con sé per andare in certi casi e si consultavano insieme. Lì si può dire che lui ha esercitato estesamente l'ufficio di medico. Gli conducevano i malati anche dai paesi vicini e aveva un ascendente grandissimo. Questo però non ci deve stupire, infatti Luigi Maria non dimenticò mai di aggiornarsi anche a livello professionale. Lui studiò anatomia, farmacia, questo per preparare le giuste ricette per i tanti suoi malati, ma la ricetta più bella non veniva, come ebbe a dire lui stesso, da una farmacia, ma diceva dal Sacro Cuore di Gesù. E ci fa un po' sorridere, ma una cosa bellissima, quella che vi sto dicendo adesso. La sua prescrizione era questa, ascoltiamo. Dice Luigi Maria Monti: per godere di buona salute di anima e di corpo, prendete radici di fede, verdi fronde di speranza, rose di carità, viole di umiltà, gigli di purità, assenzio di contrizione, legno della croce. Legate tutto in un fascetto col fil della rassegnazione, mettetelo a bollire sul fuoco dell'amore, nel vaso dell'orazione, con vino di santa allegrezza e con acqua di temperanza, ben chiuso col coperchio del silenzio. Lasciatelo la mattina nel sereno della meditazione, prendetene una tazza mattino e sera e così godrete buona salute. Un altro frate dice: è un infuso quello del Beato Luigi Maria Monti che non ha date di scadenza. È vero, ed è proprio vero. Intanto però, il 15 marzo del 1877, aveva 52 anni, lasciò, dobbiamo dire un po' a malincuore, l'ospedale di Orte e con grandissimo dispiacere di tutti i cittadini che le volevano sinceramente bene. Questo perché? Perché Pio IX lo vuole superiore generale della congregazione dei fratelli ospedalieri che praticamente lo aveva messo da parte, no? Voi pensate il Signore come rovescia le cose. Ma la cosa bella e che ci stupisce è che era stato candidato al Papa dai due visitatori apostolici che Pio IX aveva nominato, perché probabilmente le cose nella comunità dei fratelli ospedalieri non andavano molto bene. Ma la cosa grande è che uno dei due visitatori era proprio San Giovanni Bosco. Quindi San Giovanni Bosco aveva detto al Papa: guarda che il superiore generale giusto è proprio Luigi Maria Monti. E ora il nostro futuro beato era proprio nella situazione giusta per attuare finalmente, e si attuava la promessa di Gesù e di Maria, in questa piccola congregazione nascente, di inserire, di plasmare del suo carisma di amore, di carità, con quello che aveva formulato con Padre Dossi e con Pezzini il 25 marzo 1857, anche di trasmettere ai tanti giovani religiosi la sua esperienza di buon samaritano accanto al letto dei tanti malati, dei tanti sofferenti. E alla fine dell'anno successivo, siamo nel 1878, poté comunicare con fratelli con una gioia che gli faceva scoppiare il cuore, questo annuncio, no, che lui sospirava da anni, che aveva tantissimo sofferto, e disse: ora, per un solenne prodigio e miracolo dell'Immacolata, la Santa Sede ha decretato che il Pio Istituto dei Fratelli Ospedalieri sia libero, come sono tutte le altre religioni, cioè le congregazioni, con un solo capo, cioè lui, immediatamente soggetto alla medesima Santa Sede. Grazie a Gesù e a Maria fu immenso, cari amici, e lacrime di commozione sgorgavano da quello che era il compimento del suo più grande desiderio, a lode e onore e a gloria di Gesù, di questa fondazione. E allora pensò subito anche al nuovo abito dell'istituto e lo scelse di colore azzurro, il colore di Maria, e stese poi anche le nuove costituzioni che furono approvate il 5 dicembre 1881. A Roma lui, anche se il Papa stesso gli aveva donato una casa, lui preferiva restare lì. E questa comunità fu trasformata proprio dalla sua presenza. Pose nel cuore dei confratelli proprio lo spirito di famiglia, alimentato soprattutto dall'Eucaristia, dall'adorazione a Gesù Eucaristico e dalla devozione unica, immensa e grande a Maria Santissima. E nonostante fosse ora superiore generale, non dimenticò di essere anche operatore sanitario, quindi non disdegnò di indossare il grembiule bianco, anzi, era presente nelle corsie, non solo per stimolare o per motivare i confratelli, ma per prendere parte alla distribuzione del vitto, momento sempre gravoso dell'assistenza, anche perché molti ammalati avevano bisogno di essere imboccati perché non potevano nutrirsi. Non solo, si rese attivo anche sostituendo, quando era il caso, nei turni anche di notte, i confratelli o perché erano malati o affaticati, oppure ponendosi accanto ai più giovani religiosi infermieri come loro guida, quindi era lui che dava l'esempio in questo caso. E proprio ai giovani discepoli volle trasmettere, cari amici, quel suo spirito di carità, ricco di grandissima umanità, e diceva loro: cercate sempre tra le pieghe di un dolore fisico il tormento di un'anima. Il tormento di un'anima. Quindi era soprattutto la grazia santificante da donare con la confessione, con la comunione, con la preghiera ai tantissimi ricoverati, e tantissimi, tantissimi erano lontani da Dio. E le sue visite, ci viene detto, erano un rito. Prima si intratteneva con i confratelli infermi, voleva infatti vedere, rendersi conto personalmente dello stato di salute di ciascuno. Non solo, verificava anche diagnosi, terapie che venivano a loro rivolti. E così, negli anni, arriviamo al 1883, quando propose al Capitolo Generale di arricchire l'attività apostolica dell'Istituto di un'altra finalità che gli era sempre, da sempre, stata particolarmente a cuore. Era l'accoglienza degli orfani, dei ragazzi. E la proposta, dopo essere stata valutata, fu approvata e Padre Monti progettò di realizzarla proprio in Lombardia e, come dicevamo prima, come fondatore la realizzò a Saronno, in provincia di Varese, in tutta la sua bellezza, la bellezza del suo carisma e della sua carità. Cosa fece? Comprò un vecchio castello visconteo con l'aiuto di quattro sacerdoti per accogliere i tanti orfani da educare, come diceva, figli della comunità e con amore paterno. Essi dovevano crescere fino alla maggiore età in un clima di famiglia, nello studio, nel lavoro, proprio sostenuti dalla stessa comunità dei religiosi. E proprio gli orfani maturati in questo clima, divenuti giovani, dovevano essere in grado poi, naturalmente, di fare una scelta di vita, quindi o formare una famiglia o scegliere la vita consacrata, quindi il ministero sacerdotale, o restare nell'istituto come laici collaboratori e istruttori di futuri artigiani. Voi pensate che lui scriveva così: i fratelli educatori si dedicheranno all'educazione degli orfani con impegno, studiandosi di formarli al senso religioso della vita e alla pratica delle virtù umane, sociali e cristiane. Verso i ragazzi non saranno usati mai mezzi coercitivi per avvicinarli ai sacramenti, ma con pazienza verranno spronati ad applicarsi nello studio e ad amare il lavoro. Ognuno verrà accompagnato nella crescita secondo le sue capacità e i doni che ha ricevuto da Dio. Per questo non si lasceranno mai soli e si custodiranno come un deposito santo e prezioso, come la pupilla del proprio occhio. Questo diceva ai suoi confratelli. E sempre in questa proprietà, in questo castello visconteo che sistemarono, realizzò anche una piccola casa, possiamo dire, di salute per lungodegenti. Erano molti poveri che praticamente erano in mezzo alla strada e morivano in mezzo alla strada. Invece lui li prendeva e li portava lì. Ma non si fermò qui, fece anche un'altra grandissima cosa, estese l'assistenza ai malati a domicilio, cosa non comune all'epoca, cioè si andava a casa loro a curarli. Era profondamente convinto che proprio il malato, il corpo del malato sofferente, fosse la stessa persona di Cristo, tanto che trovandosi cari amici nella necessità, lui diceva, di scegliere tra un rosario in cappella e un malato da soccorrere, non ebbe mai alcun dubbio, avrebbe soccorso il malato, perché quella era comunque preghiera, anzi era ancora di più preghiera. E possiamo dire che fu veramente l'amico e il servo degli infermi. Possiamo dire che fu l'infermiere di Dio e fu l'interprete del Vangelo nella sofferenza, proprio anche nella sofferenza più acuta, e a completamento della sua vita fu, alla fine, voi pensate, incaricato anche della gestione dell'ospedale civile di Saronno. E dai saronnesi sarà molto amato, tanto che molti giovani della città scelsero poi di seguirlo. Vado alla parola di Dio. La parola di Dio porta a desiderare e anche a ricevere, no, i sacramenti, ma per donarli i sacramenti servono i sacerdoti. Da qui si comprendeva allora come fosse enorme, davvero enorme in lui, il desiderio di avere il permesso dal Papa di sacerdoti che operavano all'interno della sua congregazione. Non ce n'erano, perché non c'era quella possibilità. Lui non fu sacerdote, ma fu chiamato da tutti i padri proprio per la grande venerazione che avevano di lui. E sul letto di morte, voi pensate, quantunque avesse vicino il più caro dei suoi amici, che era un sacerdote, Don Giuseppe Borella, pure il nostro Beato si rammaricò di non avere in quel momento vicino un confratello del suo istituto con la stola. La provvidenza però più tardi, cioè 4 anni dopo la sua morte, nella persona di San Pio X, rese realtà il compimento tanto desiderato. Pio X concesse infatti nel 1904 l'inserimento nelle Costituzioni del capitolo del sacerdozio. Questo grande apostolo della carità si spense così nel sonno a Saronno, la città nella quale aveva posto il suo cuore e il suo carisma pregno e appassionato di amore e di carità. E proprio il 1 ottobre del 1900 le sue ultime parole furono un invito con voce flebile ma con afflato paterno a chi gli era vicino. Disse: «Vi raccomando gli orfani, vi raccomando gli infermi». Aveva 75 anni. Ma questa vita santa non poteva essere dimenticata, no? E quindi nel 1941 il beato Ildefonso Schuster, arcivescovo di Milano, aprì il processo informativo che si protrasse fino al 1951. Poi nel 2001 la Congregazione delle Cause dei Santi promulgò il decreto sull'eroicità delle virtù e poi nel 2003 si ebbe il decreto che definiva miracolosa la guarigione avvenuta nel 1961 in Sardegna di un contadino, Giovanni Luigi Iecle. E dopo questo miracolo ci fu appunto la beatificazione che operò San Giovanni Paolo II il 9 novembre del 2003, che citando il profeta Ezechiele al 47:19, parlando proprio dell'acqua viva, riprendendo il versetto del profeta, il Papa disse: «Vidi che sotto la soglia del Tempio usciva acqua, quelle acque dove giungono risanano», questo diceva il profeta Ezechiele. E dice San Giovanni Paolo II: «L'immagine dell'acqua che tutto fa rivivere ben illumina l'esistenza del beato Luigi Maria Monti, interamente dedito a risanare le piaghe del corpo e dell'anima dei malati e degli orfani. Amava chiamarli i poverelli di Cristo e li serviva animato da una fede viva, sostenuto da un'intensa e costante preghiera. Nella sua dedizione evangelica si ispirò costantemente all'esempio della Vergine Santa e pose la congregazione da lui fondata sotto il segno di Maria Immacolata. Quanto attuale il messaggio di questo nuovo beato! Per i suoi figli spirituali e per tutti i credenti, egli è un esempio di fedeltà alla chiamata di Dio e di annuncio del Vangelo della carità, un modello di solidarietà verso i bisognosi e di tenero affidamento alla Vergine Immacolata. Ebbene, cari amici, tutt'oggi la congregazione dei figli dell'Immacolata Concezione è sparsa, dicevamo, in tutto il mondo e mette in pratica nelle opere di carità il carisma di affettuosa accoglienza dei fratelli, di assistenza ai malati e di una profonda venerazione al loro santo fondatore. Pronto? Buonasera, signor Angelo. Buonasera carissima. Pronto? Con chi Ecco, la parlo? sono Adriana da Bologna. Adriana, Volevo benvenuta. ringraziarla moltissimo per questa serata, per averci fatto conoscere questo sant'uomo e le chiedevo se c'è qualche testo, ovviamente, in vendita dove poter comprare. Qualche libro, so, qualche Sì. video, ci fosse anche qualche video. Sì, volentieri Adriana, ve lo dico. Allora, vi do quello diciamo un po' più semplice che è Beato Luigi Maria Monti ed edizioni Velar, scritto da padre Giovanni Cazzaniga, ed è diciamo quello da cui abbiamo tratto parte della vita di questa sera. Lo trovate praticamente in tutte le librerie e anche a un costo molto limitato, quindi è 3,50 euro e comunque racchiude, anche se in modo sintetico, la sua vita in modo molto chiaro. La festa di questo beato poi il 22 di settembre, che grande festa naturalmente, ormai è già trascorsa, però è grande festa in tutta la congregazione, in tutto il mondo, perché essendo in tutto il mondo coprono tutti e 5 i continenti questi religiosi. Bene, io non abbiamo altro tempo, vi ringrazio comunque della sempre cortese attenzione. Vi aspettiamo a Pompei per chi potrà e chi non può, vi chiediamo di collegarsi con Radio Maria perché giovedì 7 avremo il Rosario Mondiale alle ore 16 in diretta dal Santuario di Pompei, ci sarà il Rosario Mondiale a cui poi seguirà la Santa Messa. Quindi vi aspettiamo o in presenza chi potrà venire o collegatevi, insomma, ecco, preghiamo insieme, è un darci la mano tutti quanti nel mondo, tutti e 5 i continenti, pensate che bello. Con la Madonna che ci guarda e sorride. Questa è la cosa più bella che ci possa essere. Bene, non vi annoio oltre, vi ringrazio, do un abbraccio a tutti, vi auguro buonanotte e a Dio piacendo, ci sentiremo il primo lunedì di novembre. Buona serata. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.